Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buona domenica. Grazie. La lezione di oggi fa parte della serie dei cosiddetti ritratti di jazz, cioè sorta di biografie in musica che raccontiamo qui alle nostre lezioni di jazz. E oggi parliamo di una delle protagoniste vocali, forse dal punto di vista della voce femminile, la protagonista vocale del Novecento, del jazz in particolare, appunto Billie Holiday, di cui proveremo a raccontare sia la musica sia la tormentatissima vita. Billie Holiday è stata, senza alcun dubbio, la cantante jazz più personale e più importante del Novecento. Stavo anche per dire la più influente, non so se posso dire la più influente, perché la sua personalità è stata talmente peculiare che imitarla o lasciarsi influenzare da Billie Holiday è alquanto difficile, in quanto si rischia poi di fare, come dire, una specie di clone, di imitazione di second'ordine della sua voce. Una personalità molto particolare che poi nel corso della sua vita, e soprattutto poi anche dopo la sua vita, ha assunto una sorta di aura maledetta, di persona sventurata. Billie Holiday è vissuta solamente 44 anni, a un certo punto della sua vita si è creata intorno a lei l'immagine dell'artista maledetta, che è un'immagine che, come sappiamo, funziona sempre anche dal punto di vista del marketing. Si crea da parte del pubblico una specie di piacevole voyeurismo nel guardare le disgrazie altrui standone dall'esterno e di viverle in maniera mediata, non pericolosa, attraverso l'arte. È un'idea quasi romantica dell'artista maledetto che ci consente di accedere ad una dimensione altra senza che noi ascoltatori viviamo personalmente i drammi dell'artista. Questa idea di Billie Holiday, artista maledetta, in parte è un cliché che proveremo anche a smontare oggi, in parte è perfino il risultato di scelte della stessa Billie Holiday e in parte è anche l'esito di alcune di alcune vicende biografiche di Billie Holiday, la quale è stata fin da bambina una ragazzina non proprio fortunatissima. Vorrei ricordarvi che Billie Holiday era nata a Filadelfia il 7 aprile 1915. Billie Holiday nasce con il nome di Eleonora Fagan. La madre appunto è certa, il padre non si sa bene. La madre era stata cacciata da casa perché appunto aveva avuto questa gravidanza indesiderata, aveva solo 19 anni quando rimase incinta di Eleonora e la cosa un po' allarmante, appunto, che non conosciamo esattamente l'identità del padre, che molto probabilmente era un ragazzo più o meno della stessa età della madre, che avrà avuto all'epoca 18-19 anni, di nome Clarence Holiday, che più tardi si ritaglierà una nicchia non secondaria nella storia del jazz, perché Clarence Holiday si farà un certo nome nei primi anni 30 come chitarrista di alcune orchestre swing importanti, in particolare l'orchestra di Fletcher Anderson. Sul certificato di nascita c'è il nome di un altro padre, probabilmente semplicemente un nome messo lì di una persona che non ha mai avuto probabilmente a che fare realmente con la madre, che viveva in un'altra città. Probabilmente è stato un nome messo sul certificato per metterci un nome qualsiasi, e già questo vi dà un'idea della precarietà familiare nella quale Eleonora è nata, e si faceva chiamare appunto Eleonora Fagan con il cognome della madre. La madre si arrangiava nel quartiere povero di Filadelfia nei modi più diversi, oscillando fra lavori, più o meno legali. Come uno dei suoi lavori fissi nel corso della sua vita, della madre, è stato quello di cuoca, di avere un piccolo spaccio di, che so, pollo fritto, hamburger, facendo questo lavoro anche privatamente. Per esempio vendeva cibo sui treni, oppure nei momenti più difficili slittando verso attività meno legali e meno piacevoli, compresa la prostituzione. In tutto questo la piccola Eleonora è cresciuta praticamente abbandonata a se stessa. La madre non se la portava dietro, la lasciava ad una parente che peraltro era anche invalida, quindi non riusciva a seguirla, e Eleonora è cresciuta in mezzo alla strada. È cresciuta in mezzo alla strada, quindi scolarizzazione incerta e intermittente, frequentazioni nei quartieri poveri, prima di Filadelfia, poi la famiglia, con la mamma si trasferirono ad Harlem, in ambienti che non escludevano la frequentazione del bordello o di altri ambienti più o meno malfamati, dove la piccola Eleonora magari aiutava il bilancio familiare facendo piccoli lavori nei quali aiutava la madre nella consegna, per esempio, delle merci che produceva la madre. Questa condizione di strada ha fatto sì che, e l'assenza della madre, hanno fatto sì che Eleonora sviluppasse, diciamo così, una doppia attitudine: da un lato un fiero senso di indipendenza, un approccio molto energico alla vita, una concretezza, un pragmatismo immediati, dall'altro invece un profondo senso di dipendenza dagli altri, in particolare, e non ci dobbiamo stupire visto l'assenza del padre, in particolare dagli uomini, al limite quasi dell'autolesionismo. Poi vedremo che c'è anche una componente autolesionistica nella personalità di Billie Holiday, che all'epoca appunto non era altro che Eleonora Fagan, il suo vero nome. C'è un momento molto drammatico, due momenti molto drammatici nella vicenda della bambina Eleonora, tra i 9 e i 10 anni, proprio perché passa più tempo per la strada che a scuola, viene rinchiusa in un riformatorio dove impara, diciamo così, alcune dure regole della vita, però l'episodio più drammatico è quando a 11 anni la madre, tornando a casa, la trova a letto con un ragazzo molto più grande, un poco più che ventenne. Lei ha 11 anni, quindi una specie di, in realtà, di stupro che porta poi lo stupratore in carcere e lei di nuovo in un istituto, diciamo, di recupero psicologico. Questo è un altro aspetto che segnerà profondamente la vita di Eleonora Fagan. Peraltro vorrei subito, intanto, visto che abbiamo snocciolato in maniera quasi traumatica una serie di eventi scioccanti, per cui uno dice: certo, non poteva che crescere come una persona disturbata. Non è vero perché non dobbiamo fare della psicologia facile e meccanica, perché ad esempio una sua quasi contemporanea, cioè Ella Fitzgerald, ebbe un'infanzia praticamente simile, cresciuta in mezzo alla strada, subito una violenza sessuale da ragazzina, diciamo un approccio alla vita molto duro, ma è venuta su come una persona diciamo psicologicamente e fisicamente molto più sana di Billie Holiday, o la chiamiamo ancora Eleonora Fagan, molto più sana, molto più positiva. Quindi tutto dipende in effetti dal modo in cui vengono elaborati certi traumi infantili. Non dobbiamo pensare che Eleonora avesse il destino segnato, non certamente da questo punto di vista. Quello che però, diciamo, c'è un aspetto molto positivo in tutto questo, è il fatto intanto che sicuramente la piccola Eleonora scorrazzava per le strade e si divertiva a suo modo, ma aveva scoperto già da ragazzina, 11-12 anni, ascoltava i dischi di Louis Armstrong e di Billie Holiday, su cui torneremo, e dimostra a 12, 13, 14 anni, mentre ormai siamo già ad Harlem, un orecchio formidabile e una memoria musicale altrettanto fuori del comune. Per tutta la vita poi la cantante che conosciamo col nome di Billie Holiday sarà sostanzialmente musicalmente analfabeta, ma questo, l'analfabetismo musicale, il fatto di non riuscire a leggere la musica non ha niente a che fare con l'abilità musicale, vorrei che fosse, lo so che è ovvio, ma vorrei che fosse chiaro una volta per tutte. Quindi l'abilità musicale ha a che fare con altre questioni che sono in parte genetiche, in parte culturali, e geneticamente Billie Holiday aveva, diciamo, la natura dalla sua parte. Grande orecchio, grande memoria musicale e grande capacità di rielaborare quello che ascoltava. Louis Armstrong e, abbiamo detto, Bessie Smith, su cui, ripeto, torneremo fra poco. Diventa normale che la piccola Eleonora decida, intorno ai 15-16 anni, di esibirsi in dei piccoli locali di Harlem. Quando dico piccoli locali, vi dovete immaginare la friggitoria all'angolo dove ci sono 10 persone che mangiano pollo fritto e c'è un tavolino o stanno in piedi. E lei con un pianoforte e un amico pianista e questa ragazzina che ha 16 anni ma ne dimostra molti di più, come vedremo tra l'altro in un filmato quando lei è molto giovane. Questo è un altro aspetto, diciamo, fisico di Billie Holiday, che peraltro ha attirato gli uomini che l'hanno voluta sfruttare fin da quando era una ragazzina. Questa ragazzona così, che sembra più grande della sua età, è una cantante forse non matura, ma che comunque ha già una sua personalità, esprime già un suo carisma. Tant'è che, anche se fa questa cosa a livello semiprofessionale, ha già un nome d'arte, e il nome d'arte è Billie Holiday. Anche questo cambiare continuamente nome ci fa capire che c'è qualche problema nel senso di identità di quella che conosciamo come Billie Holiday. Billie perché ci sono varie ipotesi, pare che ci fosse un suo fidanzato dell'epoca che si chiamava Billie, allora lei l'ha chiamato così, oppure c'è chi sostiene che c'era un'attrice che lei amava molto che si chiamava Billie Dove, e quindi prese il nome di questa attrice che amava. Fatto sta che decide di chiamarsi in questo nome. Holiday era, e questo psicologicamente interessante, il cognome che usava il padre a volte nel giro musicale, era uno degli pseudonimi che usava Clarence Holiday. Ma a un certo punto comunque Billie verrà, poi cambierà anche il suo cognome e rapidamente verrà conosciuta come Billie Holiday. Questo è piuttosto interessante perché da un punto di vista professionale lei assume il cognome di quel padre che poi sappiamo ha incrociato nella vita solamente un paio di volte con, i testimoni ci raccontano, con un imbarazzo reciproco tra persone che tra l'altro avevano, diciamo, poco più di 12 anni, 15 anni di differenza d'età. Vi vorrei far vedere Billie Holiday a 19 anni, in uno dei suoi momenti, dei primi momenti in cui è pienamente matura. Appena visto un refuso, Duke Ellington, ovviamente Duke Ellington, fantastico, questo è il senso di professionalità impeccabile che contraddistingue il vostro insegnante, il vostro conferenziere. È fatto apposta per farvi ridere, l'ho messo lì. Professionalmente la carriera di Billie Holiday decolla intorno al 1933, quindi quando lei ha 18 anni, viene scoperta da John Hammond, che era un importante talent scout e produttore, che in quegli stessi anni stava promuovendo l'orchestra di Benny Goodman, e di lì a poco tra l'altro scoprirà anche Count Basie, questo per dire la caratura del personaggio, e John Hammond tra le altre cose le fa cominciare a registrare dei dischi proprio con Benny Goodman, visto che gestiva entrambi, e la mette in contatto con Duke Ellington, che viene coinvolto in un bellissimo corto cinematografico che si chiama appunto Symphony in Black, diviso in quattro parti. È un'opera musicale molto ricca che viene visualizzata da un regista in quattro episodi. Il terzo episodio si chiama Gelosia, che in realtà Jealousy è la rielaborazione di un pezzo che Duke Ellington aveva scritto poco prima, Saddest Tale, e la scena è, ci sono un uomo e una donna che stanno, lo vedrete, che stanno danzando in una casa. Giù, sotto questa casa, a vedere questa scena di ballo, fuori dalla finestra, c'è una ragazza, e Billie Holiday, la vedrete, 19enne, dimostra molto più della sua età, che si capisce è la donna dell'uomo che si sta divertendo sopra, e affranta canta questa canzone di gelosia. E già c'è tutta la capacità interpretativa di Billie Holiday, e guardate anche una capacità anche di stare sulla scena, che è una cosa su cui torneremo tra breve. Un frammento, come notate, è già in un certo senso delineato un personaggio, cioè la donna maltrattata, anche fisicamente, come avete visto, addirittura lei è costretta a cantare stesa per terra nella prima parte dell'episodio, e poi appunto canta questo blues di maltrattamento e di abbandono. Non è che i produttori avevano scelto Billie Holiday perché fosse una donna sfortunata per interpretare la parte della maltrattata, ma perché comunque era, come dire, vocalmente e fisicamente perfetta per questo ruolo, ma lei accetta questo tipo di ruolo perché, come vedremo, in un certo senso comprende già da questa età, appunto 19 anni, ma è una ragazza decisamente scafata e matura, che questo è un personaggio. Interpretare la parte della donna abbandonata e maltrattata può essere un personaggio che funziona. Ora, in realtà, Billie Holiday è stata realmente maltrattata da molti uomini, ma ha avuto anche molti uomini che l'hanno trattata molto bene. Io ho fatto una piccola galleria che non vuole essere né morbosa né voyeuristica, ma è molto importante per capire la vita di Billie Holiday, di alcuni degli uomini più importanti della sua vita. Nel bene e nel male. Il primo che vediamo è Freddie Green, che è stato il chitarrista dell'orchestra di Count Basie, uno dei grandi amori di Billie Holiday, che però era sposato e dopo un flirt molto importante che hanno avuto a metà degli anni 30 si sono separati da buoni amici. Avrebbe potuto essere probabilmente l'uomo giusto per la sua vita, ma il destino non ha voluto così. Invece, nel 1941, Billie Holiday si lega a Jimmy Monroe, di cui non abbiamo, direi quasi dire per fortuna, alcuna immagine. Il nome è sottolineato perché è messo sottolineato i mariti di Billie Holiday. Questo è legalmente suo marito. Jimmy Monroe era il fratello di Clark Monroe, che chi conosce la storia del jazz sa che è un nome importante perché era il gestore di un club di Harlem dove è nato il bebop, il Monroe's, appunto, Uptown. Jimmy Monroe era il tipico, quello che sarà poi il tipico compagno di Billie Holiday, un piccolo criminale, uno spacciatore di droga. In questo caso parliamo però di droghe leggere, tutt'al più si arriva all'oppio, dalla marijuana all'hashish all'oppio, e un piccolo criminale sostanzialmente, uno che a volte entra e esce di prigione, ha mille guai e usa Billie Holiday perché è quella che guadagna dei soldi. E porta tra l'altro Billie Holiday verso un massiccio consumo dell'oppio negli anni 30 e negli anni 40. Jimmy Monroe sarà legalmente marito di Billie Holiday fino al 1900, se non vado errato, 47. Un altro compagno piuttosto importante è il contrabbassista John Simmons, che si ascolta anche in diversi suoi dischi. John Simmons è un testimone importante del lato masochista di Billie Holiday. Non voglio essere, ripeto, morboso, però è un tratto importante per capire anche l'evoluzione personale di Billie Holiday, che probabilmente aveva un profilo da un punto di vista sessuale di tipo masochistico, spinto anche, che però, e questa è una cosa che non ce ne importa niente, non ci riguarda, ma ci riguarda nel momento in cui, oltre a questo aspetto, lei sviluppa una dipendenza verso persone che non solo la trattano male, ma la sfruttano, il che è ancora peggio. Tant'è che John Simmons, comprendendo questo profilo, poi a un certo punto ha abbandonato Billie Holiday perché non se la sentiva di fare continuamente la parte del carnefice, anche da un punto di vista per esempio economico, di sfruttarla per i soldi. Mentre molti meno scrupoli si è fatto Joe Guy, che è stato un compagno importante di Billie Holiday, un trombettista che avrebbe potuto fare una grande carriera, lo si sente in alcuni dischi dei primi anni 40, se non fosse che era un eroinomane, ed è stato l'uomo che purtroppo ha traghettato Billie Holiday dall'oppio verso l'eroina, questo diciamo nel corso della seconda guerra mondiale, verso la fine della guerra, quando l'oppio è diventato via via sempre meno disponibile sul mercato della droga, e molti oppiomani spinti, come per esempio Billie Holiday, a un certo punto si sono convertiti all'eroina. Joe Guy purtroppo è stato un uomo che è l'uomo che l'ha convertita all'eroina, che l'ha messa in un sacco di guai. Forse uno dei peggiori di tutti è stato John Levy, un manager, proprietario di alcuni locali di Harlem, anche lui, non solo drogato, eroinomane anche lui. Qui questa è una foto importante perché viene da un importante processo che Billie Holiday subì nel 1947, che poi la porterà a scontare quasi un anno di prigione per detenzione di droghe pesanti, in particolare di eroina. Anche qui John Levy, un vero e proprio criminale, un vero e proprio sfruttatore, un uomo che si muove esclusivamente all'interno dei giri mafiosi dell'entertainment statunitense, che ha usato il nome di Billie Holiday per i suoi affari. E lei è stata dipendente per molti anni da questo figuro veramente squallidissimo. Il secondo marito, sposato molto tardi, nel 1957, vi ricordo che Billie Holiday muore nel 59, è Louis McKay, un uomo dal profilo ambiguo, sicuramente anche lui un piccolo criminale legato alla mafia in particolare, ma che ha avuto un ruolo importantissimo intorno alla seconda metà degli anni 50, perché è l'uomo che per un breve periodo è riuscito a sottrarre Billie Holiday dalla dipendenza della droga. Ha avuto più difficoltà a tenerla lontana dall'alcol, che ha funzionato come una specie di compensazione dell'abbandono dell'eroina, Ma McKay, pur non avendo la fedina penale pulita, a McKay va dato atto che ha fatto il possibile per tenere Billie Holiday lontana dagli spacciatori, lontana dai peggiori criminali, lontana da tutto ciò che stava rovinando, come vedremo più avanti, la sua vita e la sua carriera. Ovviamente McKay aveva il suo interesse, perché poi uno che ha cercato di gestire l'eredità di Billie Holiday e ha sfruttato anche i suoi soldi, tanto per fare un esempio, ha usato i soldi di Billie Holiday per aprire un suo locale a Chicago, che poi ha avuto una fortuna abbastanza scarsa. Uno degli uomini che poi, l'ultimo, che ha portato veramente Billie Holiday verso la tomba è stato quest'altro squallidissimo figuro, un avvocatucolo di nome Earl Zidins, che è riuscito a infilarsi, diciamo così, fra McKay e la Holiday, e proprio negli ultimi mesi di vita di Billie Holiday l'ha fatta ripiombare nell'eroina. L'obiettivo ovviamente di Zidins era di appropriarsi dei soldi di Billie Holiday, perché Billie Holiday guadagnava discretamente ma aveva sempre le tasche vuote, perché doveva pagare continuamente avvocati, problemi legali, ovviamente la droga, e poi si fidava di personaggi di pidocchi, veramente non saprei come definirli diversamente, come Earl Zidins, che poi l'ha di nuovo fatta ripiombare, anche con scontri fisici con Louis McKay, ma comunque l'ha fatta ripiombare nell'eroina, e poi alla fine una cirrosi epatica nel 17 luglio 1959 ci ha portato via Billie Holiday a 44 anni. Non ci sono solo uomini disastrosi, non solo disastrosi come in questa galleria, ma ci sono anche uomini molto importanti nella vita di Billie Holiday, che sono stati, diciamo, soprattutto coloro che le hanno dato dei consigli di carattere artistico, che hanno guidato la sua attività artistica, produttori che hanno influenzato le sue scelte di repertorio, le sue scelte artistiche, che hanno indirizzato la sua carriera, e sono stati, diciamo, alcuni degli uomini più importanti in senso positivo della carriera di Billie Holiday. Forse il più importante di tutti è l'uomo che l'ha scoperta, cioè John Hammond, un produttore importantissimo, che poi le fece registrare dischi per la Columbia fra il 1934 e il 1942. Un altro uomo fondamentale è Milt Gabler, che aveva una piccola etichetta, lo vediamo lì al centro dietro Billie Holiday, una piccola etichetta indipendente, la Commodore, per la quale Billie Holiday ha registrato brevemente pochi ma importantissimi dischi. Come vedete, diciamo, il succedersi di questi produttori ci consente di dividere la carriera di Billie Holiday anche per periodi discografici, perché si distinguono molto bene questi periodi discografici in quanto sono determinati nel loro contenuto dalle scelte dei produttori. Milt Gabler poi passerà alla Decca, tanto per farvi capire il personaggio, è quello che ha prodotto Rock Around the Clock, quindi un uomo chiave nello sviluppo della musica popolare del Novecento, diventerà produttore della Decca, e quando va alla Decca chiama Billie Holiday e fa di Billie Holiday la cantante di successo che noi oggi conosciamo, cioè la cantante di successo popolare, quella che raggiunge il grande pubblico, quella che riempie i teatri, la star, e che vende un sacco di dischi. E questo lo dobbiamo appunto ai dischi Decca di Milt Gabler, che sono dei dischi, ne ascolteremo poi un esempio più avanti, dei dischi apertamente pop, con gli archi, con un repertorio ad hoc ritagliato sulla sua personalità, in modo da raggiungere un grande pubblico. Molto meno pop e invece molto più jazz è l'ultimo personaggio importantissimo nella vita di Billie Holiday, uno dei più grandi produttori della storia del jazz, Norman Granz, direi per importanza quanto John Hammond. Norman Granz è, direi, quasi uno dei padri del jazz moderno. Si potrebbe fare una storia del jazz attraverso i suoi produttori. Uno di quegli uomini che ha veramente profondamente rispettato i musicisti, e così ha fatto con Billie Holiday. Anzi, come vedremo, ha cercato di sottrarre Billie Holiday al cliché della cantante maledetta, che canta sempre canzoni di donne abbandonate e così via, e l'ha messa in contesti molto più jazz, molto più swinganti, molto più freschi. Dopo il 57 Billie Holiday ha registrato un altro paio di dischi, ma non ha più avuto l'opportunità di incontrare una figura, chiamiamola così, paterna, se mi consentite la metafora, una figura paterna che la guidasse. Un altro personaggio chiave nel bene e nel male, infine, è stato il suo manager, il manager che ha avuto per praticamente tutta la vita, Joe Glazer, di suo un personaggio dal profilo molto inquietante, non vi voglio rovinare la domenica mattina con questa galleria di personaggi veramente terrificanti, ma Joe Glazer è uno meglio perderlo che lasciarlo, se non fosse che è stato uno dei manager più potenti della storia della musica americana. Vi dico solo che è stato il manager tratto di Louis Armstrong, è colui che ha determinato la carriera di Armstrong e ha determinato anche la carriera di Billie Holiday, anche se poi Billie Holiday, scatenando cause legali a non finire, ogni tanto si appoggiava a questo o a quell'altro manager secondario senza dirlo a Glazer, quindi creando grandissimi casini. Glazer è responsabile non solo delle scelte professionali di Billie Holiday, ma anche, essendo lui stesso legato alla malavita, anche di alcuni passaggi legali nella vita di Billie Holiday disastrosi. In particolare, quando Billie Holiday subì il processo per possesso di droga insieme a John Levy nel 1947, Glazer fece in modo che, come dire, di smarcarsi completamente da Billie Holiday, la lasciò praticamente senza difesa, letteralmente senza avvocato, in tribunale, e Billie Holiday fu condannata a un certo periodo di detenzione, poi ne scontò meno di un anno, e questo ha sconvolto la sua professione, perché, lo dico subito, fino alla fine degli anni 60 a New York, nella città di New York, vigeva una regola che poi si è scoperta essere tutt'altro che legale, che era quella della cabaret card. Praticamente, non sto a fare la storia, che è un po' lunga, ma in sostanza, se uno voleva esibirsi in locali dove si vendevano alcolici, doveva avere un tesserino rilasciato dalla polizia, che veniva rilasciato di solito in maniera molto arbitraria, sulla base, diciamo così, di una buona condotta. Per cui se avevi la fedina penale sporca, avevi un processo in corso, eccetera, la polizia poteva ritirarti questa cabaret card e tu non potevi esibirti nei locali dove si vendevano alcolici. Questa regola, che tra l'altro poi era soggetta a mille eccezioni del tutto arbitrarie, ha rovinato la carriera di molti musicisti. Per esempio, allora, a New York si lavorava soprattutto lavorando nei locali, suonando sera dopo sera nei locali. Dal 1947 in poi Billie Holiday non ha più potuto suonare nei locali di New York, ma doveva andarsene in giro nei paesini, oppure andare a Boston o fare dei tour faticosi altrove, o andare in California, perché non poteva esibirsi nei locali di New York. Pensate all'ipocrisia: Billie Holiday nel 1947 farà il tutto esaurito alla Carnegie Hall. Lei si può esibire nel più importante teatro d'America, alla Carnegie Hall, ma non può cantare a pochi isolati di distanza, che so, al Birdland, perché non ha la cabaret card. Questa cosa ha rovinato la vita di Billie Holiday, ha rovinato la carriera di Bud Powell, ha rovinato la carriera di Thelonious Monk, almeno in una prima fase della sua carriera, e l'ha condizionata pesantemente sul piano professionale. Veniamo alla musica. Un altro uomo molto importante nella carriera di Billie Holiday è stato il pianista Teddy Wilson, che su mandato di John Hammond, il produttore della Columbia, ha organizzato le prime sedute discografiche nelle quali canta Billie Holiday. Cosa faceva Teddy Wilson? Alzava il telefono, chiamava alcuni dei musicisti più importanti che c'erano in quel momento a New York, sceglieva i brani del repertorio sulla base di quanto gli veniva consegnato dal produttore o dagli editori musicali, istruiva Billie Holiday in un pomeriggio. Si vedevano il pomeriggio prima a casa di Teddy Wilson, lui al piano suonava il pezzo, lei con il suo orecchio pazzesco imparava al volo le parole e la melodia, ma non solo imparava le parole e la melodia, sviluppava anche una sua attitudine interpretativa nei confronti di quella canzone. Il pomeriggio dopo andavano in studio, verso le 2 del pomeriggio, lei si presentava, suonavano una, massimo 2 take e il pezzo era fatto. Questo facevano 3-4 pezzi, a volte anche 6, alla volta. E Billie Holiday, ormai chiamata appunto Billie Holiday, siamo intorno al 1935, quindi lei ha 20 anni, Billie Holiday è già un interprete pienamente matura, capace di dare importanza a canzoni stupidissime come quella che stiamo per ascoltare. Voi direte: ma perché non ci fai sentire una grande canzone? No, perché What a Little Moonlight Can Do è una stupidissima canzone del 1935, su quello che può fare a una coppia di amanti un raggio di luna in una notte di luna piena, ed è cantata, intanto è una canzone che esula completamente dal cliché che abbiamo visto già in Jealousy di Symphony in Black, della donna maltrattata che subisce eccetera, invece è un pezzo swing, allegro, vivace, che la Holiday canta con un relax, poi torneremo in dettaglio sugli aspetti vocali, con un relax e uno swing eccezionali. In molti degli esempi che ascolteremo sentirete anche dei grandi solisti, qui sono Benny Goodman, Ben Webster e Teddy Wilson, mi spiace che viene un po' piccolo adesso sullo schermo, e in molti degli esempi che vi offrirò oggi avrete la possibilità di leggere anche mentre ascoltiamo Billie Holiday il testo della canzone e anche un piccolo testo oculistico, così qualcuno di voi domani sa cosa può fare. E non vi sto a tradurre, altrimenti perdiamo troppo tempo. Mi spiace magari per chi non ha familiarità con l'inglese, ma magari potete prendere appunti e tornare su internet e guardare con più calma le parole, ma non posso adesso tradurre, altrimenti veramente facciamo troppo tardi. Quindi vi faccio sentire What a Little Moonlight Can Do e poi ci ragioniamo sopra. Grazie a Dio non c'è niente di maledetto, diciamo, in questa registrazione, in questo pezzo. Avete sentito una canzoncina molto semplice. In realtà, quello che a noi sembra oggi così naturale, questa voce che fluttua con swing, che avete sentito usa un po' di arrocchimenti in certi punti per ottenere un effetto più blues, diciamo così. Questo swing naturale, questa voce anche dal timbro, diciamoci la verità, inusuale, non è certo una voce tornita, una voce curata nel senso tradizionale, ha questo colore brunito, ma al tempo stesso leggero, che non si concede chissà quali movimenti, andare su, andare giù, ma invece sta ferma quasi vicino al parlato piuttosto che alla melodia, ma è un parlato ritmico che c'ha molto relax, molto swing. E, ecco, tutto questo che ci sembra oggi ovvio, nel 1935 non lo era affatto, perché il canto jazz femminile e in generale il canto pop femminile era un canto che era invece molto più orientato verso quelle che si chiamavano le torch singers o i torch songs, cioè canzoni in cui la cantante tendeva a essere molto lamentosa, a cantare pene d'amore, con un tono quasi da piagnisteo, mi verrebbe da dire, molto introverso e al tempo stesso palesemente falso, cioè c'è qualcosa di un sentimentalismo sottolineato. Le cantanti di maggiore successo avevano questa attitudine, e mentre i cantanti jazz uomini stavano andando in una direzione di maggiore libertà, per esempio Louis Armstrong, a cui abbiamo dedicato una lezione, quindi lo sapete bene, dal punto di vista femminile c'era invece ancora l'orientamento verso il cliché che vi ho appena descritto, con qualche eccezione, per esempio le Boswell Sisters, che però era un trio vocale in cui c'era Connie Boswell, che era anche una cantante magnifica, solista, ma sostanzialmente si trattava di un trio vocale. La stessa Ella Fitzgerald, che emerge in questo periodo, è ancora indecisa, incerta, tra un approccio più jazz e uno più sentimentale. Invece Billie Holiday fa una cosa che nessuna cantante faceva all'epoca, cioè fa del jazz, cantando. È una novità assoluta che tra l'altro viene recepita in modo molto positivo sia dal pubblico sia dalla critica. Dischi come questo fanno rizzare le orecchie ai critici, ai musicisti, al pubblico. Pensate che lo stesso Teddy Wilson, che era più conservatore dal punto di vista della vocalità, non amava particolarmente la vocalità della Holiday, perché dice stravolge la melodia, non si sente bene la melodia, non è molto sentimentale, è troppo libera in un certo senso. Da dove viene questa capacità di reinterpretare in modo così profondo, da un punto di vista timbrico e ritmico, le parole? Viene principalmente, diciamo, da due fonti. La prima è Louis Armstrong. Abbiamo visto che la Holiday adolescente ascolta i dischi di Armstrong. Uno dei primi dischi che ascolta è Western Blues, dove Armstrong sillaba con sillabe senza senso, una melodia molto, molto, molto sensuale. E vorrei farvi sentire un'indicazione che dà Gunther Schuller, un pezzo del 1932, dove Louis Armstrong, se ci togliete gli abbellimenti che fa alla fine di ogni frase, lui tende a scendere con dei piccoli glissando alla fine di ogni frase, se togliete quegli abbellimenti sembra di sentire veramente il fraseggio di Billie Holiday, perché tende a essere più vicino al parlato che ha cantato, e ha questa specie di fluttuazione libera sul ritmo che è incredibilmente simile a quella della Holiday. Il brano è Between the Devil and Deep Blue Sea, 1932. Oh, I don't want you, but I do lose you. You've got me in between. Provate a immaginare la voce della Holiday. I forget you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the deep blue sea. Poi si piano strappiano, eccetera. Una caratteristica che avete sentito è quella della semplificazione della melodia. Questo è un tratto tipico di Billie Holiday. La melodia è complessa? La melodia è articolata? Bene, la semplifico. Ci sono delle canzoni in cui Billie Holiday non canta più di 3 o 4 note. Sul serio, non sto esagerando. È stato fatto il conto da alcuni musicologi, gente che non ha niente da fare. Ma, tra cui il sottoscritto, come vedete. Ma come, applaudite? Io parlo male di me stesso e voi applaudite. Stiamo parlando di masochisti, però insomma. Così comincia la melodia di Between the Devil and the Deep Blue Sea, quell'originale. E sapete come la canta Armstrong? Così. cioè dove ci sono quattro note, Armstrong ne usa una sola. E Billie Holiday farebbe lo stesso, anzi ha fatto lo stesso. Questo è un tratto essenziale, la semplificazione che però consente al cantante di concentrarsi meno sulla melodia, più sulle parole, perché capite che è più vicino al parlato, e di concedersi una maggiore libertà ritmica, perché non deve stare a pensare alla melodia. Questo è anche, come dire, una specie di stratagemma di una cantante come la Holiday, non è il caso di Armstrong, di una cantante come la Holiday, che ha anche dei mezzi vocali abbastanza ristretti, è molto espressiva, ha un timbro molto personale, ma non ha la tecnica, per esempio, di una Ella Fitzgerald, o non parliamo poi di una Sarah Vaughan. La seconda fonte, per ammissione della stessa Holiday, è stata la più grande cantante di blues degli anni 20 e 30, cioè Bessie Smith. Da Bessie Smith, Billie Holiday ha appreso tutta una serie di tecniche relative, per esempio, ai piccoli abbellimenti, il piccolo glissando, la piccola appoggiatura, il distorcere lievemente una melodia, l'appoggiare la nota in un certo modo, il respirare all'interno delle frasi prendendosi delle pause di un certo tipo. E lei, Billie Holiday, non è andata né nella scuola pubblica né a scuola di musica. La sua scuola di musica sono stati i dischi di Louis Armstrong e Bessie Smith. E io me l'immagino, che lo racconta lei stessa, come deve aver passato intere giornate a imitare, a rifare sui dischi quel tipo di fraseggio, e quindi ha in certo senso incorporato, assimilato quel modo di respirare, quel modo di appoggiare le note. Sentite come un breve frammento di come canta nei primi anni 30 Bessie Smith un blues. Fate attenzione ai dettagli della voce. Ecco, per esempio questo questo spingere note in avanti, che è una cosa che poi Billie Holiday farà molto spesso. Andiamo dritti, dritti, allora, ad ascoltare un blues di Billie Holiday, cantato da Billie Holiday, uno dei suoi dischi di maggiore successo del periodo Columbia, 1936, Billie's Blues. Lei ha raccontato una storia assolutamente fasulla, cioè che il pezzo fu inventato sul momento, in realtà il testo è un testo, si vede, molto ragionato. Ovviamente parla di infelicità d'amore come molti blues, e qui sentite, ve lo faccio ascoltare non solo perché è molto bello ed è un bel modo di affrontare come dire, l'ascolto di Billie Holiday che canta il blues, ma perché potete sentire la sintesi fra la semplificazione melodica di Louis Armstrong e tutti questi piccoli trucchi di appoggiature, di spinte ritmiche e di respiri che lei ha acquisito dall'ascolto di Bessie Smith. Questo è il testo. Come appoggia la Bessie Smith. I love my man, tell the world I do, but when he mistreats me, makes me feel so blue. My man wouldn't give me no breakfast, wouldn't give me no dinner, squawked about my supper and put me outdoors, had the nerve to lay a matchbox on quello era Benny Goodman, questo è Bunny Berrigan. L'ultimo verso fa come capire che lei si offre, dice, sono tutto quello che un uomo chiede da una donna. L'idea di costruire questa immagine di donna disponibile, sottomessa e poi nella realtà anche dipendente, è un'immagine che Billie Holiday costruisce in maniera abbastanza, come vedremo tra poco più avanti, in maniera abbastanza scientifica, direi, perché lei capisce che il suo personaggio non ha intenzione, attenzione, non ha intenzione alla maniera romantica di far coincidere la vita e l'arte, di dire io canto così perché sono così. No, è un atteggiamento da personaggio di scena. È il modello delle torch singers, cioè delle cantanti sentimentali che cantano canzoni di sfortuna d'amore, ma in chiave swing, in chiave jazz, in chiave di libertà interpretativa. Quindi in un certo senso è come se, scusate l'espressione un po' trita, un posizionamento di mercato, cioè lei dice questo è il mio personaggio, questo è il mio modo di cantare, lo fa in maniera istintiva, istintiva ma non ingenua. Lei sceglie le canzoni che vuole cantare, decide che alcune vanno bene, altre non vanno bene, e quando gli viene imposta una canzone che non va bene, nei dischi Columbia, lei sentiamo che lei ha disagio, sentiamo che l'interpretazione non è corretta. D'altra parte, noi sappiamo che dal vivo Billie Holiday per tutta la vita, e questo sarà uno dei limiti della sua arte, per tutta la vita ha cantato sempre la stessa manciata di canzoni. Se voi andate ad ascoltare i dischi live di Billie Holiday, alla fine trovate sempre quelle 10, 12, 15 canzoni, non di più, attenzione, un repertorio ristrettissimo, perché lei offriva al pubblico quella immagine di sé. Ora, prima abbiamo tratteggiato una galleria di uomini importanti nella vita di Billie Holiday, e i più scafati si saranno magari chiesti, e Lester Young dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui, Lester Young. Su di cui abbiamo parlato, mi sembra, all'inizio di questa serie di lezioni di jazz, quando abbiamo parlato dei sassofoni. Io ormai mi confondo forse l'anno scorso, non lo so, non mi ricordo più. Va bene. I due non sono stati amanti, ma sono stati una coppia artistica tra le più magiche della storia del jazz. Un'amicizia che è durata molti anni. Si incontrarono a New York più o meno nel periodo in cui avete sentito Billy's Blues, 1935-1936. Lester Young arrivava a New York con l'orchestra di Count Basie, si incontrano e scoprono di avere una stessa attitudine, tra l'altro un'attitudine anche per i soprannomi, perché Lester Young si inventa il soprannome di Lady Day per Billie Holiday, e mentre Billie Holiday chiamerà Lester Young Press, cioè l'abbreviazione di President, cioè il presidente dei sax tenori, il più grande sax tenore che possa esistere. I due stabiliscono una relazione che è artistica ed emotiva molto profonda, incidono una serie di dischi insieme che sono tra le massime vette della vocalità e della strumentalità jazz. Perché cosa hanno in comune questi due? Hanno in comune intanto una grande sensibilità melodica, la capacità di reinventare melodicamente il materiale che hanno a disposizione, ma secondo me c'è qualcosa di più. Sono due persone che nell'arte, nell'esprimersi, non nascondono la propria fragilità. E questo è un'attitudine particolare nel jazz, perché il jazz nasce con una musica molto da macho, molto da energica, molto muscolare, in cui si esprime la propria forza, si esprime la propria attitudine espressiva, proiettiva verso il mondo. Ma già Bix Beiderbecke, a cui magari prima o poi dovremo dedicare una lezione, ci ha insegnato che il jazz può essere anche la musica dell'introversione e la musica anche dell'esprimere apertamente davanti a tutti, del mettere sul piatto, sul tavolo davanti a tutti, la propria fragilità. Lester Young e Lady Day in un certo senso si compensavano perché si sostenevano l'un l'altro in questo gioco di fragilità. In realtà poi da un punto di vista artistico è il loro intreccio che è fantastico. In particolare vorrei farvi ascoltare un primo brano da questo punto di vista che è la versione al maschile di una canzone che nel titolo originale era femminile, She's Funny That Way, una canzone degli anni 20 che lei ovviamente canta al maschile, He's Funny That Way. Io adesso vi proietto anche il testo, però vorrei che ascoltandolo, più che il testo, che tutto sommato è secondario da questo punto di vista per importanza e qualità, vi prego di concentrare la vostra attenzione sul modo in cui il sassofono e la voce si intrecciano. Lavorano secondo una regola che non si dovrebbe mai seguire in musica, cioè sullo stesso registro, perché se io canto qui e tu suoni qui è fatale che ci scontriamo, uno va a coprire l'altro. Invece qui non succede, addirittura ci sono dei punti in cui uno imita le frasi dell'altro, è una specie di rispecchiarsi e di intrecciarsi magico. Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got a man crazy for me. He's funny that way. That man crazy for me, he's funny that way. I can see no other way and no better plan. End it all and let him go to some better gal. But I'm only human, a coward. At best, I'm more than certain he'd follow me west. I've got that man crazy for me. He's funny that way. Riascoltandolo con voi in questo momento è magistrale sentire l'equilibrio che c'è nella voce di Billie Holiday, se vi concentrate sui dettagli dei movimenti melodici, l'equilibrio che c'è fra la sincerità del feeling, no? L'immediatezza dell'emozione e invece la lavorazione dettagliata, ragionata, finissima di ogni frase, il cesello che c'è in ogni frase. Noi abbiamo le alternate takes, per esempio, di questi pezzi, e lei canta ogni pezzo esattamente, quando lo rifà, quando fa la prova, esattamente nello stesso modo. Cioè tutto lavorato nel dettaglio. Quando poi va dal vivo a cantare il pezzo, e noi abbiamo le registrazioni dal vivo, lo canta di nuovo nello stesso modo. Cioè quella che ci sembra un'assoluta spontaneità è in realtà il frutto di una lavorazione finissima che a volte prende meno di mezz'ora, un'ora al pianoforte con il pianista che ti accompagna e tu che individui, lei che individua l'impostazione giusta del pezzo, che una volta impostata rimane fissa. E quindi c'è questo miracolo di sintesi tra l'abbandono emotivo, la sincerità emotiva e dall'altro appunto l'artificio giocato su ogni singolo dettaglio. Include la collaborazione fra Billie Holiday e Lester Young, scusate, non so perché è partito il brano prima, per un errore, e questo All of Me, 1939, esistono tre take, noi ascoltiamo la terza, che non fu pubblicata fino agli anni 70, e sapete perché? Perché era troppo lunga, non stava in un 78 giri, sentirete la voce del tecnico che alla fine dice it was a bit too long, e lei dice non ti preoccupare, ne facciamo un'altra. Però vi faccio sentire questa take non ufficiale, perché qui i due non suonano insieme, Lester Young e Billie Holiday, ma sono diciamo in perfetta sintonia uno dopo l'altro. C'è un problema con l'audio, che non ho capito qual è. Abbiate un attimo di pazienza. Facciamo così. Vi chiedo un attimo di pazienza. Thank you. Il tecnico preoccupato dice, bit long, un po' troppo lungo. La melodia fa così, adesso la suono in... E all'inizio Billy Holiday canta così. Cioè, invece di fare l'arpeggio, fa. E poi, invece, la melodia, ripeto. Lei canta. Tre note invece di 1, 2, 3, 4, 5 note. Tre invece di 5 e poi laddove c'è l'arpeggio lei canta una nota sola. Ecco questo elemento di semplificazione. Anche il modo in cui respira, non so se avete fatto caso, how can I, pausa, go on dear without you, nel quart'ultimo verso. C'è questo spezzare la sintassi in modo inconsueto, cosa che dà un respiro particolare alle frasi. Billie Holiday per un paio di occasioni è stata anche una cantante di big band. Qui dobbiamo fare una piccola parentesi. Era il lavoro principale delle cantanti, donne, quelle di apparire con l'orchestra, stare tutta la sera sedute lì a fianco, poi alzarsi, cantare un paio di canzoni sentimentali, risedersi e fine. Billie Holiday invece impose il suo stile quando cantò brevemente, prima con l'orchestra di Count Basie e poi con quella di Artie Shaw. In particolare impose una cosa inaudita per qualsiasi cantante di jazz, impose il repertorio, decideva lei i pezzi che bisognava suonare, perché lei andava lì come una star e imponeva la sua immagine, abbiamo detto, professionale, sul palcoscenico con un certo repertorio. Questo non esisteva da nessuna parte. La cantante era una bella statuina che doveva stare lì e cantare i pezzi che diceva il caporchestra. Punto. Da questo punto di vista, anche professionalmente, Billie Holiday è stata assolutamente unica. Non solo, lei era la protagonista assoluta del pezzo, non c'era poi la parte orchestrale con l'assolo di qualcun altro, no, lei, l'orchestra doveva accompagnarla. E questo è quello che succede nei pochi esempi che purtroppo abbiamo, nessuno in studio, tutte registrazioni radiofoniche del breve periodo con cui lavoro con Count Basie. Potete immaginare una personalità così forte e individualista e indipendente, per certi versi, come Billie Holiday, non poteva sottoporsi alla disciplina dell'orchestra. Però i pochi esempi che abbiamo sono fantastici. Questa è una registrazione radiofonica del 37 di un pezzo che si chiama Swing Brother Swing, dura 1 minuto e mezzo, ma è bellissimo, con l'orchestra di Basie in sottofondo e la sua voce in primo piano. And that of course was James Rushing musically commentating, and now we're going to ask Count Basie and all the cast to swing on down to the tune called Swing Brother Swing. Rhythm captivates me, hot rhythm stimulates me, can't help but swing it, boy, swing it, brother, swing. Don't stop to diddle-daddle, stop this foolish prattle, come on, swing me gay, swing it, brother, swing. Ready to go, and there ain't nobody gonna hold me down. Say, listen, Bo, hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle-daddle and this foolish prattle. Come on, kill me, Joe, swing it, brother, swing. Deep rhythm captivates me, hot rhythm stimulates me, can't help but swing it, boy, swing it, brother, swing. Don't stop to diddle-daddle, stop this foolish prattle, come on, send me count, swing it, brother, swing. Rain to go, and there ain't nobody gonna hold me down. Say, listen, Bo, hurry up and send me, let me go to town. Stop this diddle-daddle Hai sentito anche questo arrocchimento finissimo, scantato sull'ultima parola. L'altro caporchestra con cui brevemente Biglioli lavorò fu Artie Shaw, che riuscì a lanciare la sua orchestra proprio fra il 37 e il 38, e Biglioli per un breve periodo fu la sua cantante, in particolare nel 1939. Perché vi faccio sentire un brano con Artie Shaw? Intanto perché il contesto è molto più tradizionale, lei è, in un certo senso il suo ruolo è quello della cantante dentro un contesto orchestrale più ampio, ma anche perché l'esperienza con Artie Shaw fu drammatica da un punto di vista razziale. Non abbiamo ancora parlato di questo, poi ne approfondiremo, ma intanto diciamo questo, che Artie Shaw era un clarinettista bianco, ebreo, che voleva a tutti i costi anche abbattere, come aveva fatto il suo amico, collega e rivale Benny Goodman, le barriere razziali. I brani che abbiamo sentito prima, Billy's Blues per esempio, il trombettista Bunny Berrigan è bianco, la cantante è nera. Uno che compra un disco non lo sa, non se ne accorge, non lo potevate sapere neanche voi finché non ve l'ho detto. Ma sul palcoscenico vedere un artista bianco, un artista nero, non era possibile. O comunque era possibile solo come eccezione molto particolare. Questo vuol dire che nel breve periodo in cui Billie Holiday cantò con Artie Shaw, si trovò a subire una serie di umiliazioni che vanno dal fatto che voi andate in teatro, venite all'auditorium, tutti entrano dalla porta principale, no, la cantante è nera, quella entra dalla porta secondaria. Poi magari si esce, si va al bar, tutti si siedono al tavolino e no, la signora non può sedersi al tavolino con i signori bianchi, se ne deve andare da un'altra parte. Immaginate così tutte le sere, poi con insulti, problemi, eccetera. Artie Shaw ha tentato di difenderla finché ha potuto, lei a un certo punto ha mollato. In un contesto più tradizionale voglio farvi sentire quanto sia flessibile e abile Billie Holiday in questa canzone che si chiama Any Old Time. Mm-hmm. Holiday sta letteralmente inventando un nuovo ruolo vocale, la cantante di jazz, che oggi ci sembra una cosa ovvia che all'epoca non lo era. Lei è la cantante di jazz, ma non è solo una cantante di jazz, comincia a essere un'icona anche, un personaggio conosciuto per la sua sregolatezza, perché a volte non fuma troppo, beve troppo, non si presenta in orario ai concerti, durante le sedute di registrazione crea dei problemi, professionalmente non è il massimo dell'affidabilità, quindi c'è comunque anche, diciamo, un'aura un po' maledetta intorno a lei, ma è comunque un personaggio di crescente popolarità e di crescente apprezzamento da parte del pubblico e dei critici, al punto che comincia a entrare in un giro di persone sempre favorita da John Hammond, che però nel 1942 a un certo punto la molla, perché lei comincia a essere veramente ingestibile, il periodo in cui l'oppio diventa sempre più presente nella sua vita, lei è sempre più irregolare, frequenta personaggi appunto come Jimmy Monroe, che sposa nel 1941, però comincia anche a entrare in un giro di intellettuali, gli intellettuali di sinistra che frequentano il Greenwich Village negli anni 40, in particolare un locale che si chiama il Café Society, che era il punto di ritrovo, diciamo una specie di covo di comunisti americani nella prima metà degli anni 40, un luogo di intellettuali, di poeti, di musicisti, di organizzatori, ed è qui che Billie Holiday canta ed è qui che incontra uno scrittore che si faceva chiamare Lewis Allen, ma il cui vero nome era Abel Meeropol, che aveva scritto una poesia, definirlo una canzone è un po' eccessivo, con una linea melodica elementare, una specie di recitazione o di recitativo piuttosto che una canzone, dal titolo Strange Fruit. Strange Fruit era una poesia che disegnava una classica scena campestre, pastorale, serena del sud degli Stati Uniti, ma i frutti degli alberi non sono saporiti frutti reali, ma sono uomini neri impiccati, uccisi, linciati, perché neri. Questa immagine al tempo stesso quieta e apocalittica è poeticamente molto forte. Billie Holiday si innamora immediatamente di questo testo, capisce che può darne un'interpretazione particolare, la canta al Café Society, il posto impegnato per eccellenza, e diventa anche un'icona per gli intellettuali dei primi anni 40. Lei stessa amerà molto questo pezzo, questo ruolo che canterà per tutta la sua vita. Io ve lo faccio vedere in un filmato della seconda metà, diciamo della metà degli anni 50, quindi vedrete una Billie Holiday purtroppo più sfatta, più decadente, meno, diciamo, brillante e solare di quella che abbiamo ascoltato fin qui, e con il testo sotto, così potete seguire il testo di questa scena di linciaggio terrificante. Vi prego di osservare un aspetto su cui torneremo: le espressioni del viso di Billie Holiday. Lei recita, Billie Holiday sulla scena, lo vedremo meglio, stava ferma, usava pochi calcolatissimi gesti. Osservate il modo in cui drammatizza la canzone. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry. È veramente impressionante. Prego, rompiamo il... Questa dizione così perfetta, lei è vissuta per la strada, quindi uno presume che debba avere una dizione molto più, invece è perfetta per il mio. Lo è in particolare in questo pezzo, io credo che... È una osservazione, non so se avete sentito cosa ha detto la signora. La signora, ecco, da dietro non hanno sentito. La signora si sorprendeva, diciamo, della dizione particolarmente, sottolineava la dizione perfetta e molto accurata dell'inglese di Billie Holiday, dicendo, essendo una donna tutto sommato cresciuta per strada, da dove le veniva questa attenzione? Io credo che sia venuta da una... perfezionamento professionale fatta con i produttori e i musicisti quando sono andati a lavorare insieme, cioè quando vai a incidere per la Columbia, per esempio, noi sappiamo che i produttori erano estremamente attenti a questa cosa. Un personaggio che ha subito ha vissuto una trasformazione simile è stata per esempio Bessie Smith, che aveva il produttore che le ha fatto proprio delle sessioni di apprendimento, di dizione, di la ripulita, diciamo così, in un certo senso. Quindi probabilmente, comunque è un'osservazione interessante, perché io per esempio nella letteratura su Billie Holiday non è mai stato sottolineato questo aspetto, quindi da questo momento la proclamo esperta di Billie Holiday, così, coram populo davanti a tutti. Veniamo rapidamente al periodo Decca, no, comunque davvero grazie, un'osservazione interessante. Veniamo al periodo Decca, di cui estrapolo un brano in particolare. Billie Holiday incontrò Milt Gabler, tra l'altro Strange Fruit fu registrata in studio per la Commodore di Milt Gabler, poi andò appunto alla Decca, Gabler la chiamò e la mise in un contesto che lei adorava, cioè quella della cantante pop che ha raggiunto il successo. E questo vuol dire una sola cosa, gli archi. Avere l'orchestra dietro di sé, con gli archi, che tra l'altro stavano avendo successo nel mondo del pop in quegli anni, con vari progetti di cantanti appunto accompagnati con gli archi, e lei finalmente poteva avere questa ricchezza sonora. In più, Gabler strinse rapporti con autori di canzoni che potessero scrivere canzoni per lei e che rinforzassero quel personaggio che lei si era costruito di donna che subisce dei torti, che vive del negativamente sulla sua pelle l'amore. Ecco allora Good Morning Heartache, che è un brano che adesso non facciamo in tempo ad ascoltare. Ecco allora un altro dei suoi grandi successi, My Man, che è la traduzione in inglese di una canzone francese che si chiama Mon Homme. Ecco allora, è il brano che ascoltiamo adesso, Lover Man, una canzone che poi è diventata uno standard del jazz, ma che fu scritta appositamente per la voce di Billie Holiday e per questa seduta che, se non vado errato, è la prima del periodo Decca. Direi di ascoltarcela osservando una cosa: la voce di Billie Holiday sta cambiando, non ha più quella freschezza. Qui Billie Holiday ha 29 anni, siamo nel 44, ma già non ha più la freschezza di What a Little Moonlight Can Do, cioè non ha più quella leggerezza. Gli abusi dell'oppio prima e adesso ormai già con un piede nell'eroina poi cominciano a farsi sentire. Però questa, lei sa volgere questa, per esempio, voce più roca, più fragile, al tempo stesso più incartata, in senso espressivo, e l'Overman è particolarmente efficace perché questa voce un po' rovinata sullo sfondo immacolato degli archi e, dei sassofoni, dei fiati, crea un effetto di particolare contrasto espressivo e drammatico. But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man. Where can you be? Il periodo Decca fa di Billie Holiday una star. Finalmente guadagna un sacco di soldi, che però se ne vanno spesso nelle tasche degli uomini che la sfruttano o nella droga. I suoi concerti sono sempre affollati. Nel 47 abbiamo visto canta alla Carnegie Hall, e al tempo stesso un'ascesa e una discesa. È un'ascesa nell'apprezzamento del pubblico e una discesa nell'apprezzamento professionale, perché la sempre maggiore dipendenza dalla droga fa sì che Billie Holiday, quando va negli studi della Decca, a volte non si presenta, oppure non riesce a registrare un disco, sparisce per ore, fa perdere tempo e soldi ai produttori. Insomma, diventa via via sempre più difficile da gestire. Ma questo momento di successo la porta anche a dei momenti clou, che in realtà alcuni dei quali si rivelano delle vere e proprie fregature. Ovviamente Hollywood era un miraggio per tutti. A un certo punto anche Billie Holiday riceve una chiamata da Hollywood. Fanno un film sul jazz che si chiama New Orleans, 1946, un film sulla storia del jazz, sulle origini del jazz a New Orleans. Nel cast c'è anche Louis Armstrong. Billie Holiday riceve una telefonata, vieni a Hollywood a girare il film. E lei dice, mi immaginavo che sarei andata lì a fare la parte, che so, in un cabaret di una che canta e fa la parte della cantante. Che cosa vuoi che faccia, Billie Holiday? Ma siamo a Hollywood. A Hollywood i neri sono, nei film di Hollywood, i neri sono trattati come gli ultimi gradini della società. E che parte fa Billie Holiday? La parte di una cameriera. Una parte umiliante, una parte squallida. Louis Armstrong stesso, che dovrebbe essere, voglio dire, fate un film su New Orleans, chi è il protagonista? Louis Armstrong. No, i protagonisti sono i bianchi, che tra l'altro, lo vedrete, guardano in modo così, dall'alto in basso, questi neri. E Armstrong fa una parte secondaria, fa il giullare, ovviamente. Billie Holiday ha il ruolo più umiliante, nonostante riesca a, come dire, a lasciar cadere un paio di momenti musicali magici, un misto di umiliazione, squallore e magia musicale. Un frammento di un minuto e mezzo da una scena del film in inglese non sottotitolato, lei fa la parte della cameriera, i padroni tornano a casa, la trovano al pianoforte che canta, la padrona le dice quante volte ti ho detto che non devi cantare. C'è un ospite, quest'ospite, a un certo punto lei è la cameriera di quest'ospite, si ritrova in una stanza e lei dice, ma cosa stavi cantando? Dice, canto i blues, sa, c'è il mio amante che è Satchmo, dice, ma chi è Satchmo? Satchmo è un grande musicista, con lui cantiamo i blues. E lei, questa donna, le chiede, mi finisci di cantare quel blues che cantavi prima? E lei finisce di cantare Do you know what it means to miss New Orleans, che era una canzone che era stata scritta apposta per il film. Wait, who's that, Mother? That's Endy, your maid, and I've asked her not to sing those songs in this house. But she sings like an angel. Well, there's more devil than angel in that music. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Endy, didn't I tell you not to let me catch you at that piano again? I'm sorry, ma'am. If I'd have heard you coming, I wouldn't have let you catch me. Oh, Endy, you're incorrigible. This is Miss Merrily. Hello, Endy. Welcome to New Orleans, Miss Merrily. Oh, thank you. Oh, let me fix you a good hot tub, and it will melt away all your tiredness. Wonderful. I'll send you up some nice hot tea, darling. Welcome home. Come on, Miss Julia. Endy? Yes, ma'am? That music you were playing, what was it? I just can't seem to remember not to play it, Miss Merrily. It was a kind of little old blues tune. Blues? Do you play the blues only when you're blue? No, ma'am. They just call it blues. We play it when we're blue or when we're happy, even when we're in love. Right now, I'm in the latter. Are you really, Endy? Yes, ma'am. There's no one in the world like my Satchmo. Satchmo? That's short for Satchmo. His real name is Louis, but I like Satchmo best. How does the end of that song go? Miss Merrily, are you trying to put ideas into my head? Please do, but softly. And there's something more. I miss the one I care for. More than I miss New Orleans. Alla fine, nonostante il personaggio della bionda la guardi come un animale strano perché canta i blues, vince, come appunto il vostro applauso testimonia, vince la musica. Billie Holiday sapeva stare sulla scena, come dicevo prima, aveva un approccio estremamente sobrio. Nei primi piani che abbiamo visto di Strange Fruit, le basta storcere la bocca, aprirla di più, muovere un po' la testa, tutti gesti molto calcolati, perché dai vari filmati che abbiamo e dalle testimonianze sappiamo che come l'interpretazione vocale, anche quella gestuale, era stabilita una volta per tutte. Abbiamo, voglio farvi vedere un filmato in cui lei canta accompagnata da un piccolo gruppo diretto da Count Basie nel 1950, una canzone che è fortemente legata a lei perché lei scrisse il testo, God Bless the Child. Il video, lo vedrete, non è un granché come qualità, però è sufficiente per vedere come lei, stando ferma davanti al gruppo musicale, moduli la canzone soprattutto con piccoli gesti delle mani e dell'avambraccio, il busto fermo, tutt'al più si muove a volte la testa, ma le sottolineature di senso vengono fatte principalmente con questa parte del corpo, in maniera estremamente sobria, in modo che siano piccole sottolineature verso la cosa a cui la Holiday teneva di più, cioè la sua voce. Quindi ascoltiamo questo God Bless the Child con Count Basie. Thank you, and I'd like you to know my non è un vero club, è una finta in studio, è una cosa fatta in studio. Miss Billie Holiday. Them that got shall have, them that not shall lose. So the Bible says, and it still is new. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Dal vivo doveva avere un magnetismo eccezionale. Quello che vedete qui è un momento di grande magia all'interno di una vita che si stava letteralmente sgretolando. Era già stata quasi un anno in prigione, l'eroina devastava la sua vita, gli uomini a cui si aggrappava pur di non rimanere sola, un terrore assoluto della solitudine la portava veramente a stare dietro ai peggiori approfittatori che poi si prensucchiavano tutti i soldi e che lei riusciva a guadagnare in questo momento di maggiore successo. La decca, la scarica da un giorno all'altro nel 1950 perché non è più minimamente affidabile, finché non viene, come dire, presa in carico da Norman Granz, che la fa firmare un contratto per la Verve e cerca di sottrarla a questa immagine che lei si è costruita, che sta pericolosamente collassando da personaggio a persona, cioè Billie Holiday che si è costruita il personaggio di scena della cantante donna che incarna il personaggio che soffre, vittima dell'amore, delle sfortune, dei rapporti con gli uomini, eccetera, sta collassando nella vera persona Billie Holiday. E lei un po' ci gioca, lo sa, sa che un po' la sua fortuna è anche questa, nel voyeurismo del pubblico che vede una donna effettivamente con un sacco di problemi, che è finita sui giornali, che è stata in prigione, la cui voce si sta deteriorando e che continua a cantare di donne maltrattate, di donne che subiscono pene d'amore, di donne sfruttate dagli uomini, perché in questo modo il personaggio sta collassando dentro la persona e anche la sua voce sta cambiando, si sta deteriorando, ma Norman Granz ha l'intelligenza di provare a sottrarla dal repertorio solito, non le fa più cantare necessariamente canzoni di pene d'amore, cerca invece di farle cantare pezzi più allegri, più brillanti, più jazz, le mette a fianco Ben Webster, Benny Carter, Oscar Peterson, grandi musicisti di jazz che portano una ventata positiva di musica, le vendite dei dischi sono buoni, ma vi ricordo che Billie Holiday continua a non avere la cabaret card, quindi non può esibirsi nei locali di New York, non può esibirsi davanti al suo pubblico naturale e le tocca fare giri assurdi in giro per gli Stati Uniti, raccattando date a destra e a sinistra per cercare di sopravvivere. È un po' tardi, quindi salto un brano che pensavo di farvi ascoltare, che è Love's for Sale, però preferisco farvi ascoltare un brano più allegro, che è dal periodo Verve, una canzone di Cole Porter, che è I Get a Kick Out of You, che è appunto una canzone positiva che parla di gioia d'amore, con un magnifico parterre anche di solisti, che sono Benny Carter al sax alto, Jimmy Rolls dietro poi la voce della Holiday, Harry Edison alla tromba, con un ritmo di rumba che è abbastanza inconsueto per Billie Holiday, che si lascia, come dire, guidare da Norman Granz anche in queste scelte inconsuete e molto felici di repertorio. Sentirete la voce ha molto più vibrato adesso, problemi di intonazione. Doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I'll get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Thank you. So tell me, why should it be true that I get my kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yeah, I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Get my kicks out of you. La voce si è in parte deteriorata, ci sono delle difficoltà di intonazione, a volte le note sembrano più parlate che cantate perché non riesce a prenderle bene. E questa difficoltà di intonazione è anche mascherata da un vibrato molto più ampio, però c'è come una qualità espressiva appunto più vissuta, come se la voce fosse impregnata del vissuto di Billie Holiday. Mi avvio alla conclusione, stavo pensando mentre ascoltavamo di saltare un filmato, ma c'è una cosa importante da ricordare prima di andare verso la conclusione, il fatto che in questo coronamento professionale Billie Holiday pubblica nel 1956 un'autobiografia che è curata da un giornalista, devo dire di pochi scrupoli, che si chiama William Dufty, che era il marito di una donna, che è un'amica di Billie Holiday, che le faceva un po' da quasi da manager. Oggi, come sapete, quel libro, oggi negli anni 50, fu tradotto anche in Italia e oggi si trova in edizione Feltrinelli. È molto probabile che Billie Holiday questo libro non l'abbia neanche letto, tantomeno abbia raccontato delle cose a Dufty, che ha attinto a varie fonti, lei non c'era quasi mai, e l'attendibilità del libro è quantomeno dubbia, diciamo ci sono molte cose inventate, altre esagerate, alcune vere, è una lettura molto, come dire, molto coinvolgente, che va fatta, ecco, ma non quando, se l'avete fatta o la farete, sappiate di non prendere per oro colato quello che c'è lì dentro. È un lavoro principalmente dello scrittore William Dufty, che si è, diciamo, ha cercato di romanzare, mettiamola così, una serie di cose che sapeva di Billie Holiday, probabilmente senza neanche intervistarla. Però Billie Holiday ci teneva moltissimo a questo libro, perché per lei l'idea era che un giorno avrebbero preso questo libro e a Hollywood ci avrebbero fatto un film con lei. Questo era il suo obiettivo. In effetti è quello che è successo, ma è successo nel 72, quando Sidney J. Fury ha fatto un bruttissimo film su Billie Holiday, Lady Sings the Blues, con Diana Ross nella parte di Billie Holiday, che prende il peggio di quel libro, il peggio della vita di Billie Holiday, creando un'immagine infamante del personaggio, come una donna appunto che ha vissuto solo disgrazie, e come dire, calcando la mano in maniera morbosa sugli aspetti più drammatici della vita di Billie Holiday. Il libro fu accompagnato da un disco antologico che si chiama Lady Sings the Blues, che vendette piuttosto bene. Io vado verso la conclusione perché vedo che è molto tardi, ma non posso esimermi dal farvi vedere, ecco, davanti a voi, creo, diciamo, faccio una cosa che non dovrei fare davanti a voi, ma perché non c'è il tempo, quindi vi faccio vedere solo una parte di questo filmato, celebre in cui Billie Holiday canta un blues e c'è un assolo di Ben Webster e poi c'è un famoso assolo di Lester Young. Perché vi faccio vedere questo, diciamo questo frammento da qui? Perché il destino del suo amico Lester Young, insieme a quello di Billie Holiday, è anch'esso un destino di declino. Lester Young è alcolizzato, in più ha la sifilide, e mentre Billie Holiday declina, il suo amico Lester Young declina. Quando sono chiamati in questo studio della CBS nel 57 a fare questo filmato, Lester Young non riesce neanche a suonare, non lo fanno suonare, lo tengono seduto su una sedia e non suona. Lei canta questo blues, però almeno un assolo Lester Young lo fa. Questo è un filmato che abbiamo visto anche nella lezione su Lester Young e Coleman Hawkins. Vale la pena di vederlo insieme, perché le espressioni del viso di Billie Holiday mentre Lester Young distilla quattro note perfette, sublimi, aeree di questo blues, lasciano intendere la profonda intesa umana e artistica che c'era fra questi due personaggi. Saltiamo la storia. Ecco. Arriviamo veramente all'ultimo capitolo della nostra storia. Non sto a insistere sugli aspetti drammatici del ritorno della dipendenza dalla droga, nonostante il suo secondo marito Louis McKay cerchi di tenerla fuori. Ormai è così inaffidabile che anche Norman Granz, che ha fatto il possibile, l'ha portata in Europa. Sapete, viene anche a Milano, tra l'altro in una situazione catastrofica, si affida a un manager che la lascia in mezzo alla strada senza una lira, a Milano viene fischiata al Teatro Smeraldo, poi viene fatta una serata di riparazione per cercare di risostenere questa grande artista che viene trattata come praticamente viene messa in una serata di cabaret, per cui tutti si aspettano che faccia ridere. Questa arriva, canta il blues e viene subissata di fischi. A Parigi va lì e si ritrova in mezzo a una strada senza una lira, il manager è sparito, una situazione profondamente drammatica. In tutto questo viene lasciata anche da Norman Granz, che non riesce più a gestirla per la Verve, però Joe Glaser, il manager, riesce a trovarle una seduta di incisione, la penultima che noi abbiamo, nel 1958, che produce l'ultimo suo capolavoro, un disco memorabile, a parlare del quale io ho un qualche imbarazzo, perché di fronte a questo disco non è il suo ultimo disco, è il suo penultimo disco, ma è l'ultimo che merita di essere ascoltato. E sono quei casi in cui l'arte sconfina in qualcosa di simile al voyeurismo, cioè la voce di Billie Holiday è ormai ridotta a una sorta di rottame. La produzione l'ha accontentata in questo progetto che la mette di nuovo sullo sfondo degli archi. Le canzoni sono tutte canzoni di abbandono d'amore o di solitudine, quindi che rafforzano quel personaggio che è ormai collassato nella persona reale. Forse qualcuno con una voce così non dovrebbe neanche cantare, non dovrebbe neanche registrare un disco. Billie Holiday canta, registra il disco, e quella che sembra una bancarotta, diciamo, della voce, in realtà diventa una specie di trionfo della vitalità, a dispetto di tutto, di questa voce. Le macerie di questa voce sono la parte più espressiva. la parte più potente, è comunque la sua personalità che riesce ad affermarsi non solo a dispetto, ma grazie alla voce che si è deteriorata e grazie al contrasto drammaticissimo tra questi archi impeccabili sullo sfondo e questa voce in sfacelo, in primo piano. Tra i tanti brani che potrei farvi ascoltare ho scelto uno più breve, che dura un paio di minuti, con il quale concludiamo, che si chiama For All We Know, dove c'è anche la strofa, e con questo testo, insomma, quasi che preannuncia che non ci rivedremo mai più, e questo è Lady in Satin. Sweetheart, the night is growing old. Sweetheart, my love is still untold. A kiss that is never tasted forever and ever is wasted. For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hope and my heart will be in it. For we know this may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. So love me tonight, tomorrow is made for some, tomorrow may never come. Questa non è la voce di una donna di 80 anni, ma di una donna di 43 anni. Dobbiamo essere contenti per questo? Certo che no, Billie Holiday è morta troppo presto, ha avuto una vita piena di felicità, di gioie, di piaceri e di abusi al tempo stesso. E a volte le due cose si sono anche mescolate, i piaceri e gli abusi. Alla fine credo che quello che conti per noi, cercando di evitare appunto questa sensazione, non so voi, che io ho ogni volta che ascolto per esempio questo disco, appunto di andare a spiare nel buco della serratura del privato di una persona che comunque si mette in scena con tutte le sue debolezze, alla fine comunque ci rimane la grandezza dell'arte. Da questo punto di vista Billie Holiday non è stata seconda a nessuno. Grazie.